falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi vorrei iniziare questa puntata facendovi immaginare una scena. Allora, siamo dentro allo stadio di Wembley, Londra, 1985. Sono le 2 di notte e sotto un incredibile cielo stellato c'è un uomo che è seduto su un palco di un concerto. Quest'uomo osserva il campo ormai deserto. Poche ore prima su quel prato c'erano 72.000 persone che hanno passato l'intera giornata a cantare. Bene, quest'uomo è stato l'artefice del più grande evento musicale mai organizzato al mondo, un evento che ha visto svolgersi due concerti, uno a Londra e l'altro a Filadelfia, in una staffetta virtuale che è durata più di 16 ore. Di questo e non solo di questo parleremo oggi, raccontando la vita straordinaria di Bob Geldof. Questo è Bob Geldof, cantante dei Boomtown Rats, un grande gruppo della prima ondata del punk inglese che io ho visto dal vivo un paio di volte ed erano veramente una grande band di grandissima energia. Bene, lui in realtà è irlandese, è cresciuto in un periodo molto difficile nel pieno delle tensioni politiche e sociali tra Irlanda e Gran Bretagna, le tensioni per il controllo dell'Irlanda del Nord che sono sfociate negli attentati terroristici dell'IRA da una parte e delle repressioni molto cruente della polizia e dell'esercito inglesi. In questo scenario Bob Geldof sviluppa il suo talento musicale e soprattutto un grande impegno politico e sociale. Fin dall'inizio della sua carriera si schiera contro la Chiesa cattolica e la classe politica irlandese che troppo spesso abbassa la testa al volere della regina Elisabetta. God save the Queen. Partecipando al Late Late Show, quando iniziai ad attaccare la Chiesa denunciando l'immobilismo nei confronti dei problemi reali della gente, alcune suore mi dissero che avrei fatto meglio a stare zitto. Fu allora che risposi che erano loro che dovevano tacere, visto che si concedevano anima e corpo alla Chiesa in cambio di una vita tranquilla senza problemi. E partiamo male. Infatti il risultato di questo sfogo comporta l'allontanamento dalla televisione irlandese dei Boomtown Rats e la fine dei loro concerti in patria. Lui vive un momento di depressione a contatto con la droga e una certa frustrazione artistica. In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. Thousands have already died. La vera svolta nella vita di Bob Geldof arriva nel 1984, quando la BBC trasmette un documentario sulla carestia che sta colpendo l'Etiopia. Sono immagini impressionanti di sofferenza, di disperazione, e lui, che è già provato da una situazione fortemente negativa, rimane colpito profondamente da questo documentario, ma trova un motivo per recuperare la sua vita. Così di buon mattino va negli uffici della sua casa discografica, la Polygram, chiede che tutte le royalties derivanti dalla vendita del suo ultimo singolo vadano in beneficenza per l'Etiopia. E l'ultimo disco dei Boomtown Rats è una canzone particolare, perché non sono più solo un gruppo punk. Scrivono un brano che batte tutti i record di vendita di quel momento in Inghilterra, I Don't Like Mondays. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. The whole day down. Ma lui non basta. Con la irruenza tipica degli irlandesi, afferra il primo telefono disponibile su una scrivania e compone un numero di telefono. È il numero di Midge Ure, voce solista degli Ultravox, suo grande amico, e gli chiede di aiutarlo a comporre una canzone per uscire con un singolo il Natale successivo. Con la sola forza della persuasione, con l'aiuto di un telefono, in poco più di un mese Bob Geldof riesce a compiere un'impresa impossibile. Così il 25 novembre del 1984 in uno studio londinese si trovano tutti i principali cantanti della musica britannica: Boy George, Duran Duran, Phil Collins, gli Spandau Ballet, sono tutti coinvolti nel progetto organizzato da Geldof. Tutti partecipano senza pretendere un penny dall'operazione. Il giorno seguente la canzone Do They Know It's Christmas viene lanciata da radio BBC One e una settimana dopo debutta nelle classifiche inglesi direttamente al numero uno dei singoli. E lo stesso Geldof fa fare un accorato appello alla radio a modo suo. Nobody is getting a penny out of it. Nessuno guadagnerà un solo penny da questa operazione. Tutto dipende da voi. Mancano solo 3 settimane a Natale. Ci sono 55 milioni di persone in questo paese. Rendiamo questo singolo il più venduto della storia. Regalatelo a tutti i vostri parenti. Anche se non vi piace, prendetelo, gettatelo via, bruciatelo. Non mi importa quello che ne farete. Più dischi comprate, più vite salviamo. Una sterlina e 35. È indecente. Ma questo è il prezzo di una vita umana quest'anno. E il disco raccoglie più di 8 milioni di sterline, entra in classifica anche negli Stati Uniti dopo la fine delle vacanze natalizie, rientra nelle classifiche inglesi il Natale successivo. È un successo che dura un anno, però lui, Bob, si trova a affrontare una prova che non si sarebbe aspettato. La stampa, commentando il successo del disco, si chiede come mai Geldof non sia stato in Africa di persona per assicurarsi che i fondi raccolti vengano spesi effettivamente per sfamare la popolazione affamata. E lui non lascia spazio alle polemiche, parte immediatamente per l'Etiopia. L'esperienza per Geldof è devastante, in lui cresce la convinzione che il lavoro fatto fino a quel momento rischia di diventare una goccia nel mare dell'indifferenza. Intanto, sulla scia del successo del singolo di Natale, il mondo della musica americana non vuole essere da meno, e così Michael Jackson e Quincy Jones si mettono alla testa di un gruppo altrettanto agguerrito dal punto di vista della voglia di fare. Si trovano in uno studio di registrazione e incidono un disco che passa alla storia come uno dei più venduti in assoluto. Sotto il nome di USA for Africa, 45 tra i più famosi cantanti degli Stati Uniti, tra cui Bruce Springsteen, Bob Dylan, Tina Turner, Stevie Wonder, Ray Charles, incidono il singolo We Are the World. Tra loro c'è anche un testardo irlandese, l'unico europeo che partecipa al progetto, che ne approfitta per farsi un sacco d'amici anche dall'altra parte dell'oceano, amici che gli serviranno per il suo scopo successivo. Il Gabbiano. Bob Geldof ha appena organizzato l'evento discografico del secolo. Nessuno prima di lui era riuscito a riunire in una sala di registrazione tutti i più importanti esponenti della musica britannica per registrare un disco per la raccolta fondi a favore dell'Africa. Ma i soldi raccolti da Bob Geldof da una parte e Michael Jackson e Quincy Jones dall'altra rischiano comunque di essere una goccia nel mare dell'indifferenza, come dice lui, perché bisogna creare strutture per aiutare i paesi bisognosi per molti anni. Hunger, lack of education, lack of health, corruption, conflict. Fame, mancanza di educazione, di igiene, guerre, sono tutti sintomi di un'unica malattia, la povertà. La soluzione c'è ed è politica, ma l'unico modo per farsi ascoltare dai politici è di avere una lobby potente con te. E allora serve un secondo grande colpo d'ala. è organizzare un concerto che raccolga le più grandi star della musica in tutto il mondo per creare un gruppo di persone talmente potente da riuscire a gridare abbastanza forte da farsi sentire da tutti i capi di Stato. And I thought, well, okay, let's just... Mi sono detto, ok, riuniamo i più grandi artisti di tutto il mondo, quelli che vendono di più. Così potrò andare alla Casa Bianca o al Cremlino, a Downing Street o all'Eliseo con in tasca un gruppo da 1.300.000 persone. Questa sì che era una lobby. Una data, due stadi, uno a Londra, uno a Filadelfia. Centinaia di artisti che suonano in concerto per 24 ore passandosi il testimone in contemporanea. Una raccolta fondi di un giorno intero per smuovere la coscienza globale e riunire tutta l'umanità sotto un'unica bandiera, quella della musica. La data è il 13 luglio 1985. Con l'aiuto di Harvey Goldsmith, il più importante promoter inglese, Geldof riunisce sotto il logo del Live Aid artisti come Elton John, Bruce Springsteen, Sting, Madonna in una maratona televisiva che dura quasi 24 ore e vede avvicendarsi sul palco tutti gli artisti che partecipano senza pretendere un solo centesimo di compenso. Unbelievably beautiful day, scorching hot. Un giorno incredibile. Ero lì accanto a mio padre, con cui avevo avuto grossi problemi in passato. Ero con mia moglie e con mia figlia. Eravamo seduti accanto al principe Carlo e a Diana. Davanti a me c'era uno stadio pieno e artisti che suonavano gratis per aiutare persone che non conoscevano. Stavamo attirando l'attenzione di tutto il mondo e in assoluto questo è stato il giorno più bello della mia vita. You know, this is the best day of my life, yeah. I don't care if you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze. Sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Beh, il prato dello stadio di Wembley quel giorno avrebbe potuto essere rosa o azzurro, perché non si vedeva, non si sapeva com'era da tanta gente che c'era sopra. E momenti memorabili sono stati tanti. Personalmente quello che mi è piaciuto di più è stato Bowie, che ha fatto una Heroes tiratissima e coinvolgente. E poi ci sono stati i Queen con Freddie Mercury, che sale sul palco, insomma, con la sua comunicativa, la sua sicurezza, e inizia a duettare con il pubblico sulle note di Radio Gaga. 72.000 persone battono all'unisono le mani, creando un effetto mai visto prima. Sono fantastici, lavorano in modo instancabile, con grandissima velocità nei cambi di scena, tutto fila liscio. Le esibizioni si alternano con Filadelfia, dove il concerto è iniziato alle 10 del mattino. Addirittura Phil Collins, grazie a un Concorde messo a disposizione da un amico, suona a Londra e poi vola in America, dove fa tempo a cantare di nuovo. Il mondo è sintonizzato su un'unica radio globale, però bisogna far sì che la gente non dimentichi che questo non è uno spettacolo, ma la più grande raccolta di fondi mai organizzata. Bob Geldof, che si trova in diretta televisiva accanto al commentatore della BBC che comunica i numeri di conto corrente a cui inviare le donazioni, improvvisamente ha un altro colpo d'ala, pronuncia un accorato appello al mondo intero. Gotta get on the phone and take the money out of your pocket. Don't go to the pub tonight, please. Stay in and give us the money. There are people dying now, so give me the money. What the fuck? We've got... E che cazzo? Avevamo il Concorde, avevamo gli artisti e, voglio dire, c'era quella odiosa sensazione di essere fuori da tutto. Il bel teatrino del Teleton. Fate la carità, ma andiamo. Basta con le chiacchiere inutili. Dite al mondo di darci i nostri soldi e state zitti. You know, shut up. 20.000 sterline al minuto, questa è la cifra che arriva in donazioni dopo l'appello di Geldof, un uomo che ha finalmente trovato uno scopo nella sua vita e con una vita che si stava lentamente abbandonando alla droga. Il concerto di Londra si chiude con l'esibizione di Sir Paul McCartney. Geldof, dopo qualche ora, si trova a guardare lo stadio vuoto seduto sul bordo del palco che ha visto sfilare tutti i più importanti artisti del mondo. È un momento di grande felicità. Però per Geldof si sta per aprire un altro periodo della sua vita in cui accanto alle soddisfazioni ci saranno molte sofferenze. Restate con noi e vi racconteremo tutto. Jumped out too soon by mistake. Somebody said the whole thing's half baked. Diamond lifts her glass and says, "Cheers." She stands to one side. There's no more to this than meets the eye. Everybody drinks martini dry and talks about clothes and the latest styles. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la vita di Bob Geldof, l'uomo che è stato capace di smuovere il mondo della musica introducendo nella discografia uno scopo sociale. E la musica che diventa un mezzo per aiutare i più deboli, siano essi in Africa o in qualsiasi altro luogo della terra. Lei vede, per la prima volta si è parlato di quella metà del mondo debole che chiede aiuto alla metà del mondo forte, e negli anni successivi lui incontra capi di stato, industriali, uomini di cultura, di chiesa, conosce le persone più influenti del mondo, i risultati non si fanno attendere. L'organizzazione creata da Geldof raccoglie più di 150 milioni di sterline con i quali vengono finanziati progetti in Africa, vengono costruiti acquedotti, scuole, ospedali, vengono salvate vite umane. Ma se la vita pubblica di Geldof diventa una serie di colpi d'ala positivi, la vita privata viene messa veramente a dura prova dal destino. Now, a lot of people have asked me about your washing. Have you washed recently? Well, I didn't even have time for makeup because, like, you know, there was something wrong with the satellite, and that would usually disguise my normal filth. I don't usually stink, you know. Now, you're wearing this wonderful suit. It's very nice, covered in daisies, sunflowers. Were you always interested in clothes? Paula, this is getting really stupid. Questo è un dialogo tra Bob Geldof e Paula Yates, la donna che Geldof ha sposato nell'86 dopo 10 anni di fidanzamento. Paula è la storica conduttrice di The Tube, una delle più famose trasmissioni musicali della televisione inglese. È una donna molto bella e i due, da quando sono apparsi sul palco del Live Aid accanto a Carlo e Diana, formano una delle coppie più ricercate dai giornali di gossip. Nascono 3 figlie, Bob è nel pieno della sua popolarità e tutto sembra andare per il meglio, ma come spesso accade quando si è troppo al centro dei riflettori, ecco inserirsi un terzo incomodo. Nel 96 Paula Yates conduce The Big Breakfast, una trasmissione durante la quale il cantante di turno viene intervistato sdraiato a letto con la stessa Paula. L'intervistato stavolta è Michael Hutchence, cantante del gruppo australiano In Excess. Scatta una scintilla, Paula rimane incinta e non di Bob Geldof, e i tabloid cavalcano l'onda. Il divorzio diventa la notizia con cui riempire i giornali. Geldof mantiene la custodia delle 3 figlie anche perché Paula vive un periodo con il cantante australiano caratterizzato da un massiccio uso di droga. Nel novembre dello stesso anno Hutchence, in grave depressione a causa dell'eroina, si suicida impiccandosi in una camera d'albergo, e 4 anni dopo la stessa Paula Yates viene trovata morta, devastata da alcol e eroina. Ufficialmente non si parla di suicidio, ma i dubbi rimangono, dal momento che in molte interviste l'ex moglie di Bob Geldof aveva dichiarato di non avere mai accettato il suicidio di Hutchence. Of the hair, was incapable of anything. Non ero più in grado di fare nulla, ero completamente devastato. Non riuscivo a tirarmi su dal letto, non riuscivo più a vivere. Poi un giorno ho fatto l'elenco delle cose per cui valesse la pena uccidersi e quelle per cui valesse la pena restare, e queste ultime erano di più. Tra queste c'erano i miei figli. E il mondo ti crolla addosso, cancella tutto ciò che hai fatto. Se non hai un carattere forte, non trovi le giuste motivazioni, sei perduto. Questo è quello che è accaduto a Paola Yates, e devo dire che la droga ha aggiunto danni ai danni, con il finale irreparabile. Questo è quello che non accade a Bob Geldof, che riesce a superare la tragedia del concatenarsi di tutti questi avvenimenti, il divorzio e la morte della donna di cui comunque era ancora innamorato. Niente è in grado di compensare una cosa simile. Le grandi bellezze del mondo, il profumo del caffè la mattina, una grande opera d'arte, la più bella canzone che hai scritto, guidare la tua auto in completa libertà, tutto ciò non significa niente. La vita senza amore non significa nulla. Ma Geldof non finisce di stupirci. Malgrado tutto quello che ha passato, riesce a trovare ancora la forza per sopravvivere al dolore e lo trasforma ancora una volta in un motore capace di smuovere le montagne. Dopo la morte di Paola Yates, lui vive un altro grande e nobilissimo colpo d'ala, perché prende in custodia la piccola Tiger Lily, che è la figlia e frutto del tradimento tra la Yates e Hutchins, un atto d'amore nei confronti della bambina che nel giro di pochi mesi ha perso entrambi i genitori, e la riconsegna alle sue tre sorelline più grandi. Chiunque avrebbe fatto la scelta che ho fatto io. Una bambina che ha perso la mamma e il papà. Le sue sorelle vivevano con me e lei è adorabile. Io amo in ugual modo tutte le mie figlie. Così si va avanti. La vita privata di Bob Geldof viaggia in parallelo al suo incredibile impegno sociale. Nel 2004 lui convince il primo ministro inglese Tony Blair a creare una commissione di lavoro permanente per l'Africa, nella quale ONU, Cina, Stati Uniti e tutte le principali potenze economiche si possano trovare attorno a un tavolo per studiare politiche di sviluppo per il futuro del continente africano. L'anno dopo viene organizzato il Live Aid, che ancora oggi rappresenta il più grande evento musicale mai organizzato al mondo. Sono 11 concerti in 11 città del mondo, con una copertura mediatica da 3 miliardi di persone. E questa volta non si tratta di raccogliere fondi, ma di sensibilizzare il mondo e la politica all'azzeramento del debito delle nazioni più povere. Londra, Parigi, Mosca, Roma, Johannesburg, Filadelfia sono solo alcune delle città che per un giorno creano un network globale capace di unire ancora una volta il mondo intero, naturalmente con l'aiuto della musica. The place comes ablaze with a thousand drop names. I don't know who to call. I got a friend over there in the government and he knows the situation and he's taking a stop. I think I'll call him up now. Gonna put him on the spot tonight. 1986, dopo il grande successo del Live Aid, Bob Geldof ha ricevuto dalla regina Elisabetta la croce dell'ordine dell'impero britannico, ma essendo irlandese e non facendo parte del regno del Commonwealth, non può fregiarsi del titolo di Sir. Poco male, intanto perché a lui non credo importi molto, e poi comunque la gente da quel momento ha iniziato a chiamarlo Sir Bob Geldof, fregandosene del protocollo reale. Ma questa non è che la prima di una serie di onorificenze di cui Geldof viene giustamente insignito per i meriti delle sue attività sociali. Arrivano da tutte le parti, malgrado da più parti si levino voci di dissenso sulla sua gestione dei progetti, sui suoi contatti con il mondo politico. Naturalmente c'è sempre qualcuno che non è contento. Molti cominciano a dire che lui sfrutti la sua popolarità per nascondere la mancanza di risultati concreti, come se fare delle cose per gli altri non possa essere un risultato concreto pari a quello di fare delle cose per se stessi. Lui risponde alla sua maniera alle critiche, ricordandosi che in gioventù dentro di lui pulsava un cuore punk, definendo tutte queste critiche delle solenni stronzate. Peaches Geldof, the second daughter of musician Bob Geldof and Paula Yates, has been found dead at the age of 25. Police say her death is being treated as unexplained and sudden. In the last hour, Bob Geldof said the family was beyond pain. Il 7 aprile 2014 Bob Geldof affronta ancora un altro colpo molto duro. La vita lo mette alla prova, direi ingiustamente, ancora una volta. La figlia Peaches, di soli 25 anni, viene trovata morta nella sua villa del Kent. Dopo l'autopsia non ci sono dubbi, overdose di eroina. La giovane giornalista e conduttrice, dopo aver confessato in molte interviste di non avere mai superato il trauma della morte della madre, vissuto quando lei aveva 11 anni, si suicida così come anni prima aveva fatto sua madre Paula Yates, lasciando ancora una volta Bob Geldof in preda al suo dolore. You blame yourself, ti prendi la colpa. Sei il padre e chiaramente hai fallito. Hai una figlia che si è uccisa, tu sei il padre, è colpa tua. E vai indietro, indietro, indietro coi ricordi per capire dove hai sbagliato. Oggi Bob vive a Londra con la sua nuova moglie, l'attrice francese Jeanne Marin. In un'intervista una volta aveva detto che non si sarebbe mai più risposato, ma certo i fatti che ha dovuto affrontare nella sua vita possono avergli fatto cambiare idea. Oggi i capelli sono bianchi, il volto è scavato dalle rughe, ma l'animo combattivo da irlandese che lo ha portato a sfidare il sistema e sconfiggere l'indifferenza creando un'organizzazione che da 30 anni lavora per salvare vite umane c'è ancora. Non ha voglia di smettere di farsi ascoltare. L'uomo che osò guardare Margaret Thatcher negli occhi costringendola a dare l'appoggio politico a un progetto di solidarietà oggi cerca di seguire le altre sue figlie come un padre amorevole per non ripetere gli errori che pensa di aver commesso, donando tutto l'amore che può anche a Tiger Lily che lo ha scelto come nuovo padre. She's fantastic. È fantastica, la adoro. Qualche volta quando nei negozi si sente una mia canzone e poi subito dopo un'altra degli In Excess mi prende in giro e mi chiede: sei tu questo? Ed io rispondo: sì, e quest'altro è il mio vero padre, vero? E mi dice: lui cantava meglio di te. Ah beh, grazie amore. Thanks kid. Beh, sono storie di vita veramente straordinarie e questa è una meravigliosa storia di vita e di solidarietà, la storia di Bob Geldof. Noi vi aspettiamo, quando avete delle storie da segnalarci venite a cercarci, pagine Facebook, Twitter, scrivete mail al falcoilgabbiano@radio24.it, insomma se volete mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.